insieme, amore, io e te. La vita, la vita sei tu, tu per me. Eppure non saprei, mi manca qualche cosa che forse non esiste, che tu non mi puoi dare, ma io vorrei vedere, amore. L'ho visto passeggiare negli occhi dei fanciulli, nei porti di ogni mare, dove la sera arriva senza mai bussare. C'è un cuore, c'è un cuore più grande anche per me, anche per me. C'è un sogno, c'è un sogno più sogno anche per me. Una stella che brilla tutta per me. Un albero con tante foglie, ombra per me. Un fiume pieno di perle, tutte per me. Un lago pieno di sole, solo per me. Un cielo azzurro e sponde, tutte per me. Un mare pieno d'immenso, gocce di sale del tuo dolce cuore. Eppure non saprei, mi manca qualche cosa che forse non esiste, che tu non mi puoi dare, ma io vorrei avere, amore. L'ho visto passeggiare negli occhi dei fanciulli, nei porti di ogni mare, dove la sera arriva senza mai bussare.